GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Scende il prezzo del gas, attesa per l'effetto sulle bollette, 12.000 le imprese che hanno chiesto il contributo regionale. Non solo dalla rotta balcanica, quasi un migliaio i richiedenti asilo nei centri d'accoglienza dell'Isontino ormai saturi. In Consiglio regionale la manovra d'autunno da 260 milioni, misure contro la crisi energetica e rinvio IRAP. Autogrill di Duino Sud assaltato dai tifosi del Milan in trasferta a Zagabria, furti di merce, indagini della Stradale. Ricerca in corso per un uomo di 54 anni di Opicina, ieri non ha fatto rientro dopo essersi allontanato da casa in mattinata. A Udine anche l'esercito per controllare i quartieri più sensibili, dalla stazione alla Cavarzerani, pattuglia 24 ore su 24. L'immaginario scientifico di Trieste raddoppia volumi e offerta, domenica aprono nuove installazioni e aree matematiche. Fiaccolata per la pace questa sera a Pordenone, la guiderà il vescovo Pellegrini dopo l'appello di Papa Francesco a fermare la guerra. 7:19 minuti di mercoledì 26 ottobre, buongiorno da Lorenzo Gerlinzoni e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo: il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Alle 6 c'erano 16 gradi a Trieste, mare calmo con temperatura di 20 gradi e mezzo, a Udine 15 gradi e mezzo, a Gorizia 14,5 decimi, a Pordenone 13 gradi, a Tolmezzo 11 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 9 gradi e mezzo, a Tarvisio e sul Piancavallo 7 gradi e mezzo, a Sappada 5 e 5 decimi, su Monte Lussari e Monte Zoncolan 7 gradi, a Lignano e a Grado 17 gradi, temperatura del mare 20 gradi. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per la giornata odierna: cielo in genere variabile, anche poco nuvoloso verso sera. Non è del tutto esclusa qualche debole pioggia isolata, anche se con probabilità molto bassa, possibile qualche banco di nebbia in pianura alla sera. E il maltempo dell'altra notte ha provocato un nuovo smottamento lungo la ex provinciale Perresia, già chiusa quest'estate dopo gli incendi. Rimosso ieri il materiale argilloso franato con pezzi di muro di contenimento a Pinzano al Tagliamento, bonificato uno smottamento lungo la strada di Borgo Gradischiutta di Faedis nell'Isontino, rimosse alcune piante schiantatesi lungo la viabilità pubblica e privata a Savogna di Sonzo. Ed è di 3 persone ferite il bilancio di un incidente stradale accaduto intorno alle 4 di questa mattina lungo l'autostrada 28 tra Sacile Est e Sacile Ovest in direzione Conegliano, nel territorio del comune di Sacile. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto insieme al personale dell'autostrada e ai vigili del fuoco, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto una vettura e un camion. All'interno della vettura viaggiavano 5 persone, di cui 3 minori, 3 delle quali hanno riportato lesioni serie. Sul luogo dell'incidente la SORES ha inviato 2 ambulanze, una proveniente da Pordenone, una da Sacile, una automedica e l'elicottero sanitario. Una persona è stata trasportata in elicottero in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie. Altre 2 persone sono state portate in codice giallo a Pordenone. E parliamo adesso di economia. L'incremento vertiginoso del costo dell'energia elettrica per le imprese ha portato le aziende ad approfittare del bonus regionale per abbattere le spese delle bollette. Anche le spese per la casa sono praticamente raddoppiate, ma una buona notizia c'è ed è il calo del prezzo del gas. Inflazione e bollette, una combinazione che fa sempre più paura. Sono circa 12.000 le imprese che, da metà ottobre, hanno chiesto il contributo regionale per le spese di gas e luce, numero che, a 3 giorni dalla scadenza, sembra destinato a crescere. Ma l'allarme è esteso anche alle piccole cooperative di consumo, strette tra il calo dei consumi, stimato a -7%, e l'aumento dei prezzi dell'energia. Dall'agosto dell'anno scorso, comunica Confcooperativa Alpe Adria, il costo per kilowattora è cresciuto del 205%. Va male anche per le spese nelle case. In un anno, segnalano gli amministratori di condominio, sono cresciute dal 70% fino al 120%. La buona notizia è che negli ultimi giorni il prezzo del gas è sceso, oscillando la borsa TTF di Amsterdam intorno alla soglia psicologica dei $100 al megawatt ora. È l'effetto dell'accordo europeo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia, ma anche della diminuzione dei consumi da parte delle imprese e dei cittadini. Secondo Michelangelo Agrusti, presidente Confindustria Alto Adriatico, è presto per tirare un sospiro di sollievo. Tutti gli elementi che hanno causato la crisi, dalla guerra al riassetto delle forniture, sono ancora lì. La situazione può sempre peggiorare ed è difficile fare previsioni. Altri invece sono più ottimisti. Se il calo si mantiene, la situazione è destinata a migliorare presto. Guido Befani, professore di diritto amministrativo all'Università di Trieste. Gli effetti di questo calo, se sono confermati, si vedranno nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, se questo trend positivo viene confermato. Ma in base a quello che è il libero gioco della domanda e dell'offerta, sono segnali molto, molto incoraggianti. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Da luogo di transito a destinazione, Gorizia e Lisontino sono diventati più attrattivi negli ultimi mesi per i migranti in arrivo non soltanto dalla rotta balcanica ma anche da altre regioni italiane. A segnalarlo è il prefetto che per fronteggiare la nuova emergenza annuncia un aumento di risorse per la gestione dell'accoglienza. L'emergenza migranti sta cambiando a Gorizia, a rilevarlo il prefetto Ricciardi. Le persone, a differenza che nel passato, arrivano a Gorizia e si fermano. Un tempo Gorizia era semplicemente una tappa di transito, adesso diventa una destinazione di arrivo. È attrattiva probabilmente perché la qualità dell'accoglienza, nonostante i numeri elevatissimi, è comunque tuttora adeguata. Per fronteggiare il flusso ininterrotto di arrivi si continua intanto a cercare nuovi posti, ma si fatica a trovarli. Su questo fronte il prefetto auspica possa aiutare ora il via libera a un aumento delle risorse per i gestori dell'accoglienza. Ancora Ricciardi. Si potrà avere un aumento di circa 3 euro in più pro die pro capite per i vari tipi di struttura. Significa maggiori risorse da destinare all'accoglienza, ma anche per reperire nuovi posti. Sono saliti intanto 912 richiedenti asilo presenti oggi nei centri di accoglienza dell'Isontino, saturi ormai da tempo, il grosso 633 accolti al CARA di Gradisca di Sonzo. La direttrice Antonina Cardella. È una situazione tranquilla, il centro è abbastanza popolato, però riusciamo a fornire tutti i servizi necessari per un'accoglienza dignitosa. Le difficoltà naturalmente ci sono, però siamo riusciti un po' a farcela. Adesso viene avanti il freddo, quelli che stanno dentro le tende come verranno sistemati? Man mano si liberano i posti di struttura, vengono spostati nella struttura, ma naturalmente vengono date delle coperte in più, però il flusso continua. Da Gradisca, la sindaca Linda Tomasinsic richiama il problema della tenuta sociale. Sta aumentando il livello di disagio, di insofferenza e anche la percezione di una sicurezza in calo. Ci sono anche dei segnali di comprensione. Io mi aspetto che non ci siano più persone per strada. Io chiedo che aumenti, se possibile, la velocità del fotosegnalamento in modo che le persone possano essere immesse nel circuito dell'accoglienza. Gorizia, Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: in corso di valutazione il valore dei furti di merce causati ieri da alcune centinaia di tifosi del Milan nell'area di servizio di Duino Sud, dove hanno fatto sosta 9 autobus su cui viaggiavano circa 500 sostenitori rossoneri diretti a Zagabria per assistere alla partita contro la Dinamo valevole per la Champions League. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Per le lettere di ingiurie e minacce relative alla gestione della pandemia inviate lo scorso autunno anche al presidente della regione Massimiliano Fedriga, è indagato un uomo di Milano. La Digos di Trieste con quella di Milano e la polizia postale del Friuli Venezia Giulia hanno perquisito l'abitazione del 55enne incensurato. Dalle indagini coordinate dalla procura di Trieste sono emersi fatti riguardanti le sue utenze telefoniche. All'uomo sono stati sequestrati il cellulare e la casella di posta elettronica da cui sono state inoltrate le email. E sono riprese questa mattina alle 7, poco fa, le ricerche di una persona scomparsa sul Carso. Si tratta di un uomo di 54 anni che è uscito ieri mattina dalla sua abitazione di Opicina, non ha più fatto rientro. La base per le ricerche, iniziate nel pomeriggio di ieri, è stata allestita in prossimità della stazione dei carabinieri di Prosecco e vede coinvolti sotto la direzione dei vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste e anche i volontari della protezione civile di Duino Orizzonte. Cesina, Muggia e Trieste, insieme ai volontari del soccorso alpino e alle forze dell'ordine. E ora parliamo della manovra finanziaria d'autunno in Consiglio regionale. Tra le priorità, l'energia e il caro bollette. Dal centrodestra arrivano nuovi emendamenti, mentre l'opposizione lamenta un mancato confronto. Il Consiglio regionale ha iniziato a votare sulla manovra autunnale, 260 milioni stanziati per lo più mirati a rispondere alla crisi energetica. Tra le misure messe in campo, il rinvio al 2023 del pagamento IRAP per le imprese, con il Movimento 5 Stelle che ne chiede l'abolizione. Proprio per far fronte al caro bollette, finanziamenti extra arrivano a comuni, case di riposo, scuole, convitti, musei e biblioteche. Per quanto riguarda terme e piscine in grave difficoltà per i costi energetici, l'assessore al turismo Sergio Bini ha annunciato un intervento specifico. Sulla base di questa promessa, il Partito Democratico e il consigliere Furi Honsel hanno ritirato i loro emendamenti a tutela proprio di terme e piscine. Spicca su tutte le misure l'accantonamento di 100 milioni per contribuire all'installazione di pannelli solari su prime, seconde case e condomini. La somma è aggiuntiva rispetto agli incentivi statali e sarà erogata nel 2023 con una norma apposita che la Giunta vuole rendere retroattiva a partire da chi installa fotovoltaico da novembre in poi. Come spesso accade in queste occasioni, non è solo l'esecutivo a presentare il disegno di legge e gli emendamenti, si lascia spazio anche alle forze di maggioranza. Mara Piccin, Forza Italia. Forza Italia ha inteso presentare alcuni emendamenti importanti a nostro modo di vedere. Il primo fa riferimento all'attuazione di un progetto pilota per City Bike sulla disabilità e lo scorrimento poi di diverse graduatorie che riguardano l'ambito dell'agricoltura e l'ambito della ristrutturazione. L'opposizione da parte sua lamenta un mancato coinvolgimento. Tiziano Centis, dei cittadini. Abbiamo chiesto un percorso condiviso, cosa che non è stato fatto. Adesso arriviamo in aula, siamo partiti con 70 milioni come primo stanziamento in questa manovra e siamo arrivati adesso a 250-270 milioni. Quindi ci troviamo sempre alle solite, con gli emendamenti all'ultimo momento, che dobbiamo decidere in fretta e furia perché così sia da fare. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Trieste riapre subito il confronto con i sindacati sul protocollo appalti e quanto chiedono CGL, CISL e UIL alla luce delle modifiche normative per il settore. Dopo che, scrivono in una nota i sindacati, l'ultimo tavolo tecnico con il Comune non ha dato risposte concrete su legalità, salute e sicurezza, ma anche qualità del lavoro e qualità degli appalti per migliaia di lavoratori impiegati in mense scolastiche, pulizie, servizi ausiliari, portierato, vigilanza e musei. L'adozione del protocollo appalti non è un obbligo di legge, replica il sindaco di Trieste di Piazza, ma un'attenzione ulteriore che l'amministrazione ha voluto dedicare al tema. Le proposte migliorative sono state recepite, tanto che nella riunione dello scorso giugno le sigle sindacali si sono dette soddisfatte. Dopo l'intento politico, la stesura tecnica, sottolinea il primo cittadino, alcune richieste di modifica non possono essere accolte perché contro la legge. Il documento comunque, conclude il sindaco, è ancora sul tavolo per la sottoscrizione. I nodi principali dell'avvertenza Varzila nel confronto tra i sindacati e il nuovo amministratore delegato del gruppo in Italia, Michele Cafagna. Ieri l'incontro nello stabilimento di Bagnoli. Realizzare motori sia a Trieste che in Finlandia non è più finanziariamente sostenibile. Lo hanno ribadito i rappresentanti della multinazionale scandinava Wärtsilä, ora guidata dal nuovo amministratore delegato e presidente per l'Italia Michele Cafagna, nel corso dell'incontro con le rappresentanze sindacali di FIM, FIOM e WILM, che ha segnato la riapertura di un confronto fra le parti, in attesa della convocazione al MISE. Queste ultime, dopo un confronto che si è protratto per circa 4 ore, hanno manifestato l'intenzione di chiedere un aggiornamento della discussione, che si è per ora concentrata soprattutto sull'esame della decisione, presa ormai 3 mesi fa, quella cioè di chiudere l'impianto produttivo dello stabilimento di San Dorligo della Valle, con il conseguente licenziamento di 451 addetti. Noi non siamo ovviamente d'accordo con questa lettura della situazione, commentano le organizzazioni sindacali con Antonio Rodà della WILM, che si attendevano soprattutto notizie sulla possibilità di una prosecuzione della produzione nell'impianto triestino. Per noi l'informativa non è ancora completa. Ovviamente, aggiunge, resta prioritaria la convocazione del tavolo al Ministero per lo Sviluppo Economico. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. 210 posti di lavoro in 15 aziende del Pordenonese nelle aree tecniche e manageriali della produzione e della logistica. Le figure richieste sono ingegneri progettisti, disegnatori tecnici e meccanici, ma anche impiegati, esperti in risorse umane, personale per gli uffici acquisti e crediti e ancora elettricisti, manutentori, saldatori. Le candidature saranno esaminate nel Job Day di San Vito al Tagliamento del 25 novembre. La richiesta di figure tecniche con competenze digitali e di figure manageriali da parte delle imprese coinvolte nell'iniziativa è la dimostrazione che il tessuto produttivo del territorio è dinamico e questo è anche frutto del lavoro della regione per creare una rete di servizi alle imprese e a chi cerca occupazione. A dirlo l'assessore regionale al lavoro e istruzione Alessia Rosoleni, intervenuta a Pordenone proprio all'incontro di presentazione del San Vito Job Day che si terrà alla LEF, sorta di fabbrica modello nella formazione digitale. Il prossimo 25 novembre l'evento è organizzato in collaborazione con Agenzia Umana e LEF. Ancora offerte di lavoro perché Costa Crociere assume 69 persone in Friuli Venezia Giulia. La compagnia cerca addetti all'accoglienza, tecnici audio, luci e video, fotografi e consulenti di viaggio da inserire a bordo delle navi dopo un periodo di formazione specialistica gratuita. Tre le giornate di reclutamento da oggi a venerdì, riservate però a chi ha già presentato negli scorsi giorni la propria candidatura. Al termine della fase formativa la compagnia offrirà un primo contratto a tempo determinato di 4-6 mesi prorogabili. L'iniziativa coprogettata dalla Regione e da Costa Crociere ha formato in 5 anni 236 persone, di cui il 96% ha poi ricevuto una proposta di imbarco dalla compagnia. Dopo le ultime risse avvenute nella zona della stazione a Udine, un nuovo vertice per l'ordine pubblico ha deciso il rafforzamento dei controlli nei luoghi sensibili della città. Una pattuglia automunita composta da 3 militari armati 24 ore su 24 farà la spola tra l'ex caserma Cavarzerani e il quartiere delle Magnole a Udine. Lo ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato a pochi giorni di distanza dall'ultimo incontro dal prefetto del capoluogo friulano Massimo Marchesiello con il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il comune e i vertici del Comando Militare dell'Esercito, raggruppamento del Friuli Venezia Giulia. Massimo Marchesiello, prefetto di Udine. Saranno 3 militari con una pattuglia automontata che farà quindi con fasce orarie diverse vigilanza, quindi passaggi dinamici presso la Cavarzerani, un percorso già individuato col questore, e soprattutto in orari post pomeridiani notturni nella zona di Borgo Stazione. Ogni tanto faranno dei passaggi e soste in determinati punti e saranno sempre in contatto con la sala operativa della Questura in caso di situazioni insomma di difficile gestione. Il comitato è stato anche il momento per parlare dei controlli messi in campo dalle forze dell'ordine che hanno impegnato una quarantina di uomini durante lo scorso fine settimana. Sono state 182 le persone controllate, 34 gli esercizi pubblici ispezionati, una persona arrestata per spaccio e 3 indagati. I controlli continueranno quotidianamente e saranno più stringenti nel corso dei fine settimana. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 55 anni di Udine, pluripregiudicato, è stato arrestato per rapina e furto a fine settembre dopo aver rubato 2 borsette lasciate all'interno di altrettante auto parcheggiate all'esterno di un maneggio nel Cividalese. Il 55enne ha rubato la borsa dall'auto di un'altra donna che però lo ha scoperto e ha cercato di trattenerlo mentre già quello era risalito a bordo di un'altra vettura guidata da un complice non ancora identificato. La donna era rimasta aggrappata al veicolo per alcuni metri lasciandolo soltanto nel momento in cui era stata colpita da un pugno al volto e l'aveva fatta cadere a terra sbattendo la nuca. Le indagini della squadra mobile di Udine e del commissariato di Cividale hanno individuato l'autore dei reati che si trova ora in carcere. Riunito a Pordenone in prefettura il tavolo operativo per la violenza di genere costituito dalla conferenza provinciale permanente convocata dal prefetto a luglio. Il confronto ha permesso un aggiornamento sul fenomeno e la condivisione degli approcci approcci nei percorsi di avvicinamento delle vittime di violenza con le strutture pubbliche e le associazioni per richiedere aiuto. Al tavolo hanno partecipato i referenti della Procura, delle Forze dell'Ordine, degli ambiti socio-assistenziali del Pordenonese, dell'azienda sanitaria, dell'Ordine degli Avvocati e i rappresentanti di Caritas, Voce Donna e in prima persona. Il gruppo di lavoro si riunirà nuovamente a gennaio. E ora facciamo il punto dei contagi da Covid. Su poco meno di 8.000 tra test e tamponi in Friuli Venezia Giulia sono state riscontrate 1.408 positività al coronavirus, riporta l'ultimo bollettino regionale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti positivi in altri reparti sono 208. Si sono registrati i decessi di 5 persone, 2 a Trieste, 2 a Udine, 1 a Gorizia. Fine vita in Friuli Venezia Giulia sono stati depositati 4.353 testamenti biologici, li ha contati l'associazione Luca Coscioni, che ha promosso un accesso agli atti per richiedere a 4.362 comuni italiani, il 55% del totale, quante DAT, cioè le disposizioni anticipate di trattamento, sono state ricevute dai comuni dall'entrata in vigore della legge e quante sono state trasferite alla banca dati nazionale. In Friuli Venezia Giulia è stato depositato un testamento biologico ogni 190 abitanti circa. Di tutti i testamenti biologici depositati, il 98,9% sono stati inviati alla banca dati nazionale. Il Friuli Venezia Giulia è al 12° posto per numero di testamenti biologici depositati in Italia. Oggi, 68 anni fa, la città di Trieste tornava italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale e gli anni trascorsi sotto amministrazione internazionale. Per celebrare la ricorrenza alle ore 10 e poi alle 17, alla presenza del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e delle altre autorità cittadine, si svolgeranno le cerimonie solenni dell'alza e della Maina Bandiera in Piazza Unità. E a Pordenone questa sera è prevista una fiaccolata per la pace organizzata dalla diocesi di Concordia Pordenone. A guidare la fiaccolata sarà il vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini, una iniziativa che raccoglie l'appello lanciato da Papa Francesco in occasione dell'Angelus del 2 ottobre scorso e ribadito ieri durante un incontro di preghiera al Colosseo a Roma, affinché cessi la guerra e ci si renda disponibile a costruire un nuovo mondo di pace. Il corteo prenderà il via alle 20:30 da Piazza Cavour. E vi ricordiamo che in occasione della Marcia della Pace la viabilità a Pordenone subirà alcune variazioni, in particolare per consentire il transito del corteo a partire dalle ore 20:15 verrà momentaneamente sospesa la circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli lungo il percorso da Corso Vittorio Emanuele II alla loggia del municipio. E la Scuola Media Corsi di Trieste organizza un ciclo di appuntamenti per parlare di educazione civica e Costituzione italiana. 3 magistrate penali di Trieste e Gorizia incontreranno gli studenti di terza media. Il primo appuntamento oggi con Lea Campora della sezione penale di Trieste dalle 8:30 alle 10:30 in Aula Magna. Presentato il nuovo piano dell'immaginario scientifico di Trieste che raddoppia la propria offerta. Domenica aprirà al pubblico e l'abbiamo visitato in anteprima. Visitiamo in anteprima il nuovo piano dell'immaginario scientifico di Trieste. A 2 anni esatti dall'inaugurazione della nuova sede in Porto Vecchio, apre domenica duplicando volume e offerta. 2.200 metri quadrati complessivi di area destinata allo sviluppo delle competenze scientifiche di bambini e adulti. Con 18 mesi di ritardo rispetto all'apertura prevista, ma siamo felici di celebrare tradizione e innovazione, dice la direttrice Serena Mizzan, che si dimostra disponibile a sperimentare con noi le nuove installazioni. È stata reintrodotta l'area della fisica di luce e suono che un tempo erano nella vecchia sede di Grignano. E torna quindi anche l'amata molla gigante. Per visualizzare le onde sonore, che sono delle onde di compressione e rarefazione, delle onde longitudinali, i bambini spingendo questa molla possono vedere un modello che mi fa capire come si sposta il suono. Nuova è invece l'area della matematica e della logica, dove i bambini giocando imparano le basi matematiche, perché se vedo ricordo, se faccio capisco. A noi non piace sentir dire a qualcuno io non sono fatto per la matematica o mio figlio non è portato per la matematica. Non si nasce portati per la matematica. La matematica, come tutte le altre discipline, è accessibile. E quindi noi abbiamo pensato di proporla in un modo inconsueto e anche divertente, con i giochi matematici. Un videogame di Area Science Park mostra ai bambini come un'idea può diventare prodotto attraverso i professionisti della scienza, nuovo il laboratorio di chimica e biologia che raramente i ragazzi vedono nelle scuole e poi uno spazio dedicato alla cellula. Infine ci mostrano il dietro le quinte del museo ricordando che giochi e installazioni sono ideate e realizzate dal personale dell'immaginario che ha competenze scientifiche e tecniche. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Alla SIS di Trieste in arrivo un supercomputer che sarà in grado di studiare meglio le proprietà dei materiali. Si tratta di un cervello elettronico tra i più potenti al mondo, in dotazione al Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing Data e Quantum Computing, costato 320 milioni di euro, interamente finanziati dal PNRR, e di cui la SIS di Trieste sarà co-leader. Ci spiega come funziona e perché è importante questo supercomputer Stefano Baroni, che insegna fisica teorica della materia condensata proprio alla SIS. La macchina che sarà installata alla SIS servirà essenzialmente da interfaccia fra i ricercatori e gli allievi che sono impegnati in ricerche in scienze molecolari e scienze dei materiali, interfaccia con le risorse di calcolo che saranno invece dislocate al Cineca a Bologna. La macchina di Trieste servirà essenzialmente per lo sviluppo dei codici di calcolo che saranno utilizzati per le simulazioni che saranno invece eseguite principalmente al Cineca e per l'addestramento dei nostri allievi sia all'uso di queste macchine che allo sviluppo del software necessario per farle funzionare. Software che servono per? La simulazione numerica dei materiali, in sostanza per la soluzione delle equazioni della meccanica quantistica che determinano le proprietà dei materiali. Le macchine di calcolo, i supercomputer, permettono proprio di risolvere queste equazioni, in un certo senso sostituendosi ad esperimento. La potenza di calcolo messa a disposizione da queste grandi macchine permette di partire non dalla struttura per arrivare alla funzione, ma di partire dalla funzione per arrivare alla struttura. Alle ore 7:44 minuti e 45 secondi iniziamo la rassegna stampa. Il Ministero del Mare, i terminalisti fra attese e dubbi, è il titolo del Piccolo di Trieste. Il mondo della portualità chiede chiarezza sulle competenze del nuovo dicastero. E poi troviamo sempre in prima i richiami ad alcuni articoli sul mondo dell'industria, il piano per ripartire di Varzila, ma restano i tagli, mentre la SBE di Monfalcone si assicura il gas liquido già da febbraio. In taglio alto la fotonotizia sulla fiducia ieri alla Camera al nuovo governo presieduto da Giorgia Meloni. Di spalla troviamo la cronaca, pronto il secondo piano dell'immaginario scientifico, ora al top in Europa. In conferenza dei servizi per la cabinovia l'opposizione passa all'attacco e ancora furti dentro l'autogrill di Duino Sud, la polizia indaga sugli ultras del Milan. In taglio alto la sanità, sindromi influenzali in aumento in tutto il Friuli Venezia Giulia, i sintomi sono uguali al Covid. L'invito degli esperti è comunque a vaccinarsi. Pannelli fotovoltaici, la consulta boccia i vincoli della regione a tutela dei terreni agricoli e questa è l'apertura del Messaggero Veneto di Udine. Abbiamo tentato di anticipare l'esecutivo, dice l'assessore Scocimarro. Una foto in prima pagina per il voto di fiducia al governo ieri alla Camera, un'immagine anche per il nuovo smottamento sulla strada per Resia dopo il maltempo dell'altra notte. Nella colonna di cronaca Udine, la burocrazia frena la costruzione di due isole ecologiche condominiali in via Sabadini e in via Montegrappa. Il tema apre la cronaca cittadina. A Codroi poi il ritardo, i rimborsi per le rette, 6 asili sono a rischio chiusura, poi l'incrocio di Pertegada bloccato dai rincari, il cantiere della rotonda. Lavori introvabili, SOS al governo, il titolo di apertura del Gazzettino, risse e aggressioni da lunedì in città, Udine arriva l'esercito, nella fotonotizia anche qui danni del maltempo, a fianco i disagi causati dalle ramaglie finite nel pantografo del treno con ritardi sulla linea Udine-Trieste, sotto Carnia partito il nuovo ITS, montagna attrattiva, in taglio basso il calcio, Becao non giocherà neppure a Cremona. Mentre per il basket Udine recupera Nobile e Sherrill. Ancora a fianco i lavori del Consiglio sulla manovra autunnale, i rapa alle aziende friulane, battaglia in aula a Trieste. Ci spostiamo sul piccolo, edizione di Gorizia, l'apertura sul nodo sicurezza nell'Isontino dopo la raffica di furti nelle case nell'ultimo periodo. Il prefetto Ricciardi si rivolge ai cittadini: alzate la guardia, non agevoliamo i ladri. Oggi il vertice sulla sicurezza con tutti i sindaci della provincia. In fotonotizia i danni da maltempo, si vede la vetrina sfondata di un negozio a Savogna. Si potrebbe pensare all'ennesimo furto, invece questa volta la responsabile è stata la buriana delle scorse ore. Vediamo la cronaca locale: la regione formerà nuovi assunti alla Fincantieri e poi l'attività del Consiglio Comunale di Gorizia con una seduta piuttosto agitata ieri. Via libera ai bilanci delle farmacie e cassato invece l'ordine del giorno sugli utili. Infine vediamo Grado: gli incassi alla GIT salgono a 8 milioni, un aumento del 24% rispetto al 2021, e dall'anno prossimo il via a un piano per usare tutti gli ombrelloni, quelli degli abbonati, se non utilizzati, potranno essere subaffittati ad altri clienti, previo ovviamente il consenso dell'abbonato titolare dell'ombrellone in questione, abbonato che si vedrà riconoscere il 40% di quanto incassato per quella giornata come credito sull'anno successivo. Sull'edizione di Pordenone del Gazzettino la fotonotizia in prima pagina è dedicata all'incidente mortale dell'altra sera, San Martino al Tagliamento, vittima Matteo Moro di Casarsa, 26 anni, stava rincasando in bici dopo essere andato a trovare il figlio piccolissimo, è stato tamponato. Di spalla Sacile, oggetti smarriti ma nessuno li cerca, e a Pasiano i panditi in marcia, la conquista del Sahara, si parla dei pasianesi Massimo Turchetto e Gilberto Marson che attraversano il deserto del Marocco senza supporti tecnologici. In taglio basso il calcio, la carica del presidente Lovisa che dice: da Palombi ci saranno gol decisivi, accanto ex Amman, anche qui passo decisivo, il piano per la bonifica sul Messaggero Veneto. In prima pagina la fotonotizia è per il giovane travolto e ucciso a San Martino, nella colonna centro pagina, e con una vetta per il centro a Pordenone arriva l'autobus dei rifiuti, sotto il procuratore Tito che ieri ha spiegato agli universitari come evitare le truffe, e la protesta a Maniago, strisce pedonali senza segnalazioni. In alto c'è anche il job day di San Vito a novembre con 15 aziende che, come detto, offrono 210 posti. Siamo agli spettacoli. Da questa sera fino a sabato 29 ottobre al Teatro Verdi di Pordenone c'è Slava's Snow Show, l'incantevole universo del prodigioso artista Slava Polunin, inarrivabile mimo di origine russa, considerato il migliore clown al mondo e un vero poeta del pensiero e del gesto. Azizai, il suo clown più celebre, una figura commovente e ironica, vestito di una tuta gialla da lavoro e un paio di pantofole rosse, incanta il pubblico senza distinzioni di età in uno show lirico, tenero, appassionato. Il debutto in anteprima regionale questa sera alle 20:30. E sono l'arpista friulana Emma Castellano, nata alla Tisana nel 2004 e che si sta perfezionando al Tartini di Trieste, e la 25enne arpista serba Maria Basta, le due vincitrici ex aequo della 35esima edizione del premio Karajan per la musica organizzato dalla Fondazione Lilian Karajan con i conservatori Tartini di Trieste e Tomadini di Udine. Questa sera alle 20:30 il concerto delle vincitrici in sala Tartini al Conservatorio della Città Giuliana. Al via la rassegna letteraria Romance d'autore, avventure, passioni, racconti, storie vere, viaggi della mente nei libri e con i libri. Si inizia alle 18 al Centro Culturale Casa Candussi Pasiani. Ospite d'apertura è lo scrittore e insegnante pordenonese Enrico Galiano, autore del bestseller Scuola di felicità per eterni ripetenti. Altri eventi di oggi: in regione a Pordenone prende il via la prima edizione del Festival Metropolitano della Poesia d'autore. motore organizzato dall'Associazione Media Nonis, l'appuntamento di apertura alle 17.30 in Sala De Gan della Biblioteca Civica di Pordenone. E a Gradisca di Sonzo, alla Galleria Spazzapan, è in programma una visita guidata alla mostra Dora Bassi, immagini e parole, tenuta dalla curatrice della mostra stessa, Cristina Feresin. Appuntamento alle 18. Goliotok, l'isola degli orrori, storia e memoria del lager di Tito è il titolo della mostra didattica realizzata dall'Unione degli Istriani che sarà inaugurata alle 18 nell'atrio del Palazzo Municipale di Monfalcone. La mostra sarà visitabile fino al 16 novembre. Proiezione del docufilm Il coraggio di osare, comandante Sasso, sulla figura di Mario Fantini, nome di battaglia Sasso, comandante partigiano che nell'estate del 44 assunse il comando della divisione Garibaldi Natisone, alle 20.30 nella sala eventi dell'Ampi di Udine in via Brigata Re. Per dialoghi in biblioteca alla IOPI di Udine, sala Corniale alle 18, la presentazione del libro di Anna Arces, Nel senso che vuoi tu. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle ore 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11:10 la rubrica in friulano Vueo Fevelindici parlerà del manifesto per il tagliamento redatto da Legambiente. Alle 11:20 andrà in onda A Volo Radente con una puntata dedicata alla comunicazione scientifica e al Centro Edile per la formazione e la sicurezza di Udine. I programmi regionali torneranno poi alle 13:30. È tutto per questa prima edizione del giornale radio regionale. In regia Andrea Fontanot e Walter Vidonis. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, da Lorenzo Gerlinzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.